Senti, raccontaci, una volta l'hai fatto con me, in un'intervista che tra l'altro deve ancora uscire, uscirà tra un po' e dopo ti dico quando. Raccontacene qualcuna di Omar Sivori, perché mi ha molto colpito scoprire che l'ortodossia e l'etica del calcio, rappresentata da Dino Zoff, non solo apprezzava, ma amava l'estro e direi anche la follia di un personaggio come Sivori con cui tu hai giocato nel Napoli. Beh, Sivori era straordinario, era stato un artista in campo, quindi già lo vedevo come un dio, ecco. E poi era di un sarcasmo terribile, perché quando qualcuno veniva e gli diceva: Omar, ti ricordi, abbiamo giocato contro, io ero nella SPAL, allora lui faceva una faccia un po' strana e diceva: giocato, eri in campo. No, non esageriamo, no. E poi un'altra diceva: ma sì, voi portieri, se non c'erano i tre pali morivate di fame. È il cabezzo, uno dei più grandi di tutti i tempi. Senti, e quella volta invece che in uscita l'hai travolto? Sì, l'ho sdrenato, dire la verità. Solo era l'anno 64 in Juve Mantova, una palla lunga, comunque io in uscita lo toccai col ginocchio eccetera, gli ruppi qualche costola, lui rimase per terra e arrivò Eriberto Herrera, che era l'allenatore suo, che lui era in guerra mortale quel periodo, nemico, era una bestia questo Eriberto, lo raccolse su e lo portò fuori dal campo . E lui mi disse sempre: non te la perdonerò mai, ma non perché mi hai fatto male, perché mi hai fatto portare fuori da Eriberto. ragazzi.